Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa e comincia adesso Semiglia Musica dal Mondo. E oggi ho un ospite speciale, la cantante, tanghera e pittrice Marcela Surcalo, che è qui per raccontarci il suo nuovo progetto, Tango Domina quando el tango es mujer. Parlaci di te, Marcela. Sei nata a Buenos Aires e hai approcciato la musica da giovanissima, ballando, giusto? Sì, giusto. Ciao a tutte e a tutti. È un onore essere qua a Radio Onda Rossa e a Semisha, che Semisha ha detto in argentino. E, sì, ho cominciato veramente ai 3 anni a ballare, attraverso la musica e le danze folcloristiche, e poi da lì ho continuato da giovane con il tango argentino, poi la danza contemporanea e poi altri studi da un pochino più grande, il teatro fisico, il canto e poi tutta la parte pittorica di arte visiva. Tutto questo a Barcellona? Sì, sì, buonanotte, a Buenos Aires. Tutto questo a Buenos Aires e poi in giro per il mondo e soprattutto in Italia, perché vivo qui dal 2003, quindi tanto onore e tanto cuore su questo. Un tic dall'altra parte dell'oceano e un tac da questa parte. Okay. Parlaci del tuo progetto Tango Domina quando el tango es mujer. Sì, diciamo che parlando della mia parte, come dire, del mio spazio di canto, no? Perché come dicevo prima lavoro nei diversi spazi e sono tantissimi anni che con le diverse orchestre faccio concerti di tango argentino. Negli ultimi anni collaboro con il nostro carissimo Lorenzo Bucci, straordinario, e con lui abbiamo affrontato 2 progetti. Il primo si chiamava Tango, il primissimo è il Puente, e parlava giustamente del tango come movimento di migrazione. Poi Tango, una rivoluzione che fa abbracciare, perché di questo tratta anche il tango, non soltanto a volte quella cartolina che ci viene in mente, no? Tutto pattinato, tutto preciso. E invece sta nascendo un nuovo progetto che si chiama Tango Domina quando el tango es mujer, perché abbiamo tanta voglia di raccontare e di dare voce al tango al femminile, quindi a tutte le autrici, le cantanti, le attrici e tutti i personaggi al femminile che hanno dato, come dire, l'altra metà di questo movimento enorme che è cominciato 200 anni fa. Con che incominciamo? Cominciamo con questo primo brano, che è un vals, quindi non è un ritmo di tango, anche se appartiene al tango argentino. Abbiamo 3 ritmi diversi, dopo ne parleremo. E questo tango io vi invito a chiudere gli occhi, andare in quello spazio nostro che ognuno di noi ha, perché pequeña vuol dire piccola. Quindi andiamo verso questa cosa nostra che compare quando c'è la musica, no? Questo spazio di fantasia, di, non lo so, di creatività, di invenzione. E questo brano particolarmente parla dell'attesa, della speranza, perché parla di una donna incinta che aspetta il suo bambino. Però secondo me parla anche di tutte le nostre speranze. Pequeña. Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos en flor. Tengo un nido de plumas y un canto de amor. Tú que tienes los ojos mojados de luz y empapadas las manos de tanta inquietud, con las alas de tu fantasía serás la alegría de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueño canción. La luna, que sabe la luna, la dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón. Hace mucho que espero y hará mucho más, porque tanto te quiero que habrás de llegar. No es posible que tenga la luna y la flor y no tenga conmigo tus besos de amor, donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar. Con las alas de tu fantasía serás la alegría de mi soledad. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. La luna, que sabe la luna, la dulce fortuna de amar. Sueña, te espera pequeña de mi corazón. Il prossimo brano di Marcela si chiama Milonga Sentimental e quindi, come dice il titolo, è una milonga. Che significa? Esatto, sì, come dicevamo prima, diciamo che l'ambiente tanghero e la nascita del tango, immaginate una Buenos Aires, o anzi il Rio della Plata, perché Uruguay, Buenos Aires, Santa Fe, tutta quella zona è popolata di migranti, di persone che arrivavano, no, dall'Europa, da altre parti dell'America, verso sud. In quel periodo, anzi a metà del 1700, il 40% della popolazione in quelle zone era africana, perché era gli schiavi che erano stati portati lì, ovviamente creavano questo contesto culturale. Da tutto questo scenario nasce il tango, per questo ci teniamo anche a raccontare anche queste altre fotografie, queste altre immagini. Quindi sulla milonga sentiamo proprio il ritmo africano, perché a parte che in due quarti e poi sotto sotto ha un po' quello che si chiama la clave, e a noi piace raccontare quando sentiamo una milonga che c'è il ritmo, che c'è questo ritmo dicendo caffè con pan, caffè con pan, che vuol dire caffè col pane. Però è un modo nostro per riconoscere il ritmo della milonga, no? Perché fa ta ta ta ta, ta ta ta ta. E questa è, diciamo, la regina delle milonghe, la più famosa di tutte, si chiama Milonga Sentimental. Ascoltiamola. Para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición del querer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar. es fácil pegar un taco pa' cobrarse una traición o curar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con las noches y te vayas con el sol, para decir sí a veces o para gritarte no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. E adesso io le farò una domanda, David. Andiamo a sentire un tangasso. Tangasso vuol dire un mega tango, bellissimo, conosciuto da tutti voi, anzi io vi faccio un po' di domande. Avete presente un tango che tutti quanti più o meno cantichiate, non sapete qual è, sapete che è quello del film, ma tutti pensano a un certo film, Profumo di donna, sì, Scento Fuman. Io invece lo trovo molto più affine al film Febbre da cavallo. Ah. Perché? Perché questo tangasso parla di un uomo che fa tutto quello che può per, come dire, far innamorare questa donna, conquistarla, no? E quindi fa anche delle cose buffe, no? Si gioca tutto ai cavalli, quindi va all'ippodromo, perde tutto, poi promette che non lo farà mai più. Vabbè, conoscete bene i film. Quindi adesso ci ascoltiamo questo tango pensando che è anche bello perdere la testa per qualcuno. Quindi parliamo di... Il brano, dici? Sì. Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y burlona mujer que al jugar sonriendo el amor me está mintiendo, que va en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido ya no vuelvo a ver, pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entera, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todo E anche questo brano era cantato da Marcela Surcalo e accompagnato alla chitarra da Lorenzo Bucci, bravissimo. E ascoltiamo un altro brano suo che si chiama Yo Soy María. Ci vuoi parlare di questo brano? Questo brano appartiene a un'opera fatta da un'opera, sì, diciamo, fatta da Astor Piazzolla e Orazio Ferrer, diciamo un duo di artisti che ha dato vita a tutto un versante del tango rivoluzionario, perché veramente Astor Piazzolla è quello che l'ha spaccato in mille pezzi e lo ha riformato, lo ha ricreato. È stato anche per questo ripudiato e non riconosciuto in Argentina come tango, invece lo è, perché, come dire, ha cambiato insieme alla città di Buenos Aires al suo suono, alle abitudini, alle persone, ai mezzi, a tutto quello che c'era. Lui ha cambiato anche il suono della città e attraverso i suoi brani te la fa vedere proprio. Quindi su questo è il grande artista rivoluzionario. Questo brano parla di una donna e nel tango argentino, che di solito viene considerata in gran parte la donna come la seguidora, no? La seguidora, quella che segue la marca del leader, quella che accompagna, quella che si trova accanto. Invece, attraverso questo progetto Tango Domina, vogliamo dar voce, vogliamo anche far arrivare delle immagini diverse di donna che ci sono nel tango argentino. Questa, ad esempio, parla di una donna fortissima. Lei dice lei stessa: "Yo soy María", no? Quindi con un temperamento, un modo di fare molto particolare e molto personale suo. E questo brano è stato fatto da tantissimi artisti in giro per il mondo. E approfitto anche ad invitarvi al nostro evento che faremo qui proprio a San Lorenzo, è un quartiere che io amo profondamente, dove ho vissuto, e domani saremo presenti alla Proloco di San Lorenzo con un'altra donna del tango che si chiama Rossella De Salvia, che ha portato il tango argentino nei primissimi anni del tango qui in Italia. Quindi lei continua nella divulgazione, prima tantissimo nell'organizzazione di eventi, ci ha fatto fare di tutto e di più a noi artisti argentini, non solo, attraverso il tango. E domani saremo presenti lì alla Proloco in via dei Latini 52 alle 9, facendo un concerto chiacchiera, aperitivo, charla, incontro. Quindi andiamo su questo brano. Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, te hará tata, le muerdo fuerte la boca, te hará tata, con 10 espasmos en flor yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que Soy yo. Questa versione era insieme a Buenos Aires Café Quintet con il magnifico Cristiano Lui al bandoneon, leader dell'orchestra, con cui abbiamo collaborato tantissimo negli anni. Loro sono un gruppo di Latina, bravissimissimi tutti, anche il repertorio che hanno creato e che hanno portato avanti negli anni è stato meraviglioso. Ma quindi non sono italiani, stanno a Latina però? Sono italiani. Ah, ok. Sono italiani e hanno fatto un lavoro sul tango argentino ammirevole e questa collaborazione, anzi con Cristiano Lui ci siamo incontrati in altri progetti, come ad esempio portare lo spettacolo che parlava del Diario di Piazzolla con Mariano Rigillo in giro per l'Italia. Poi ci siamo incontrati anche facendo un progetto insieme ad un altro gruppo del nord Italia, Tango Spleen. Siamo andati insieme a Corea del Sud, siamo stati a Seoul, ci siamo divertiti come matti, infatti mando un caloroso abbraccio a lui. Grande. E il prossimo brano che ci vai a ascoltare come si chiama? Il prossimo brano non è un tango, ovviamente, voi sicuramente lo conoscete perché è stato creato per un musical, si chiama No Llores Por Mi Argentina. E ovviamente sentendo questo brano pensiamo a un'unica donna, riconosciuta da tutti, polemica perché la sua figura politica è stata molto polemica, però sicuramente possiamo riconoscere in lei la figura di una donna che è nata povera nei quartieri marginali delle province, e era un'attrice, quindi anche guardata malissimo nell'ambiente politico perché gli artisti non sempre siamo benvenuti, possiamo anche dirlo, e soprattutto in quel periodo, in quell'ambiente politico. E lei, attraverso lo spazio del suo compagno e marito, no? Juan Domingo Perón, ha fatto tutto un lavoro sociale e politico ammirevole, quindi ancora la chiamano, no? la regina dei descamisados, no? De los descamisados. No llores por mi Argentina, y aquí vuelve Lorenzo Bucci. Será difícil de comprender. Soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Yo solo quiero sentir sentiros muy cerca, poder intentar abrir la ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí, mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún quieren dudar, mirad mis ojos como lloran. Te la dedico, mas no te alejes, te necesito. No llores por mi Argentina. Il prossimo brano di Marcela si chiama Barro Talvez. La cosa che mi appassiona di questo brano, per cui l'ho scelto, no? Perché per me cantare un brano vuol dire riconoscere qualcosa nel brano che mi appartiene, che appartiene a quello che voglio dire, no? E dopo su questo parleremo anche di Mercedes Sosa. E, in questo brano, che è stato fatto da El Flaco Spinetta, che appartiene al rock nazionale argentino, pensate, lui l'ha creato, l'ha composto quando aveva 14 anni, è incredibile. E in sintesi questo brano dice che devi dire la tua, devi prendere una posizione, devi fare quello che tu vuoi fare, che ti appartiene e che sei tu. E di questo parla questo brano. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. tal vez. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará. Il prossimo brano di Marcela si chiama Tita de Buenos Aires. Di cosa parla? Questo brano l'ha fatto un autore, cantante, Alberto Castagna, che in realtà faceva tutto un altro genere. Però è un brano che parla di questa donna fortissima, pazzesca, Tita Merello. È stata un'attrice e cantante argentina, nata nel 1900, che soprattutto e prima di tutto non era bella, quindi già per quell'epoca dove no, i canoni di bellezza erano altri e le donne erano messe sotto un certo tipo di estetica, e lei si è fatto strada attraverso il suo carattere, la sua presa di posizione e le scelte che faceva, quindi era particolarissima. Dopo presenteremo anche un altro brano dove canta lei proprio. E questa versione di Tita de Buenos Aires, che è un brano che io non conoscevo e me l'hanno fatto conoscere i musicisti bravissimi, c'era Argentina, Uruguay, Spagna e Italia, in questo gruppo che adesso non c'è più, si sono divisi, hanno preso strade diverse, però qui a Roma e in Italia abbiamo suonato e loro soprattutto hanno fatto tantissimi altri concerti. Noi abbiamo un periodo di collaborazione e questo gruppo meraviglioso si chiama La Bordona, quindi adesso sentiamo Tita de Buenos Aires con La Bordona. Te pintaron las cejas con dos pinceladas de asfalto caliente y quedó Buenos Aires dibujada en tu frente, y esa pena de amor que agrandó tus ojeras faltando a la cita, no pudiste borrarla ni con agua bendita. Era escudo y espada tu palabra atrevida, tu mirada insolente, cuánto miedo tenías que te dañe la gente, esa gente que hablaba y que mal comentaba tu sabiduría. Ellos nunca supieron lo que tú ya sabías. Tita de Buenos Aires, tita mía, la de los tangos calientes y de las manos tan frías, la de plegarias al cielo, como la Madre María, la del mercado de abasto, la del paseo en tranvía. Ese loco coraje de potro salvaje te galopan las venas cuando bailas un tango, cuando canta su pena. Y aunque tires la bronca, nos trate de loco, de nada me quejo. Tu mirada en silencio es también un consejo. Te pintaron las cejas con dos pinceladas de asfalto caliente y quedó Buenos Aires y corriente, esa pena de amor que agrandó tus ojeras faltando a la cita, no pudiste borrarla ni con agua bendita. Tita de Buenos Aires, tita mía, la de los tangos calientes y de las manos tan frías, la de plegarias al cielo, como la Madre María, la del mercado de abasto, la del paseo en tranvía. Que pocos se dieron cuenta cuánto miedo les tenía. Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e per chi si è acceso la radio adesso ricordo che c'è qui un ospite speciale accanto a me, Marcella Surcalo, che è una cantante che ci sta facendo ascoltare il suo repertorio. E il prossimo brano si chiama Oblivion, e parlaci un po'. Oblivion è un pezzo centrale nel mio repertorio, perché è un brano di Astor Piazzolla e rappresenta proprio quel momento di solitudine, no? Dove a volte ti senti in mezzo a tante persone, però ti senti solo, no? Le sue parole, anzi le prime parole di questo brano erano state scritte in francese e poi è venuta fuori un'altra versione in spagnolo che io ho scelto, e dove dice: soy un planeta sin habitantes, un planeta deshabitado. E quindi quel momento dove, più che altro, oltre alla solitudine, quando ti perdi gli affetti, no? Quando non riesci più a sentire niente, quando ti senti estraneo, no? Stranito. E il tango ci dà anche questa possibilità di rispecchiare delle emozioni, no? Quello che senti, quello che sei in quel giorno là. Questa versione che metteremo adesso penso non l'ha mai sentita nessuno. Wow, allora un'anteprima per la radio. Sì, e poi vi dico un'altra piccola cosa, perché nel tango prima dicevamo c'è il tango, la milonga e il vals come ritmo, e poi ci sono le sonorità più antiche e ci sono anche quelle moderne. E questa versione che mettiamo adesso di Oblivion l'abbiamo fatta in studio, in quartetto, con Cristiano Lui e Federico Ferrandina alla chitarra e Paride Fursi al basso, il contrabbasso, e abbiamo usato anche dei suoni più moderni, quindi una versione tutta nostra. Bene, ascoltiamolo. Questo era l'ultimo brano di Marcela e per proseguire la puntata abbiamo scelto assieme una scaletta composta da musiciste legate al tango argentino. E cominciamo con la cantante e attrice Nelly Omar, una delle voci leggendarie del tango argentino che ha avuto una carriera lunghissima e ha mantenuto sempre un legame viscerale con il tango tradizionale, giusto? Sì, giustissimo. E infatti questo brano che andiamo a ascoltare è un vals, e il vals più famoso nell'ambiente del tango argentino si chiama Desde el Alma. È stato composto da Rosita Melo. Rosita Melo era un'artista uruguayana che però nata in Uruguay, però la sua famiglia era del Rio Nero in Vulture, dove sono stata poco fa per una mostra d'arte visiva. Pensate che questa donna ha composto questo meraviglioso brano quando aveva 14 anni. Poi il brano è stato interpretato, come dicevamo prima, da Nelly Omar, poi è stato inserito nei film e soprattutto è diventato ancora più famoso e non so se è più bello, però la versione molto apprezzata nell'ambiente del tango argentino è la versione dell'orchestra di Osvaldo Pugliese. Quindi Nelly Omar, il vals di Rosita Melo, Desde el Alma. Thank you. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión, junto al dolor que abre una herida, llega la vida trayendo otro amor. Triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Allora, io non ballo il tango, lo devo ammettere, però mi è capitato di andare per stare con i miei amici in varie serate nei centri sociali, tipo lo Spartaco, anche alla strada, allo Scoop, e ho visto questo ambiente meraviglioso del tango, e questo brano mi ha fatto proprio pensare a questo. E passiamo al prossimo brano, che è dell'Argentina Tita Merello, di cui abbiamo parlato prima. E cosa mi dici, Marcela, di questo brano e di Tita soprattutto? Sì, abbiamo parlato un pochino prima di lei, un personaggio meraviglioso. Io raccontavo un aneddoto a David, non so se era questo che mi domandavi. Sì, dimmi. No, perché nei tempi dove in TV si parlava in una certa maniera, non mi ricordo bene che anni erano, anzi io vedevo i video di quel periodo, lei era una donna che si metteva in TV e diceva "Muchacha argentina, hacete el Papa Nicolau", voleva dire ragazze argentine, fatevi il pap test, però così, no? In maniera tranquilla, informale, e non era comune, no? Per il suo tempo, per raccontare un po' il profilo di questa donna. E, lei, diciamo che ha lavorato molto nel cinema e soprattutto affrontando questi ruoli che rappresentavano e raccontavano la vita dei barrios, no? Dei posti marginali, anche delle persone che abitavano vicino al fiume. Adesso la sentiamo con un brano che l'hanno utilizzato anche per delle telenovelas, perché parla di questa donna brutta, però che tutti l'ammirano perché ha quel carattere, quel modo di fare, e quindi lei dice "Se dice de mí". Dice de mí se dice de mí se dice que Soy fiera que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, dos hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro, resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Maria Grania è un'altra delle cantanti argentine più famose, considerata una delle principali ambasciatrici del tango nel mondo. E ascolteremo un brano che si chiama Canción Desperada, fatto insieme al sextetto Mayor. Vuoi dirci qualcosa? Sì, Maria Grania, a parte che è una delle mie preferite, la sentirete. Ha collaborato moltissimo anche con l'orchestra di Osvaldo Pugliese e in questa canzone che l'ha resa famosissima in tutto il mondo. E in realtà è notevole come lei attraverso questa canzone rappresenta un'altra immagine di donna, no? Quello che dicevamo prima. C'è una frase che dice «Perché mi insegnarono a amar?» E nel senso, lei è disperata perché l'hanno tradita, perché questa storia è tremenda e quindi prima raccontava Davide, no, questo, su questo brano e su queste parole, come sicuramente rappresenta un certo tipo di educazione all'amore o di educazione alla donna a prendere quel posto nell'amore. Quindi questo tango parla di questa canzone desesperata. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbio. Orientada, se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí misma me he perdido, ciega de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. por qué me enseñaron a amar. Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué, si porque me enseñaron a amar, si al amar te matabas mi amor, por la troz del arbol o por nada, y al fin de un adiós despertar, oh, llorando, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Una mujer no entiende nunca que un hombre da todo, dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar. Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué. Si porque me enseñaron a amar. Si al amar matabas mi amor por la troz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar, oh, llorando. Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. Mi diceva Marcella che questo forse non è riuscita a spiegare bene veramente come voleva questo brano, perché è un po' complessa la cosa, nel senso che è come, se ho capito bene, che questo brano la donna soffre per amore, ma in un modo che è un po' imposto, no? Da un ruolo, ho capito bene? Sì, non è facile da spiegare, infatti appunto, no, attraverso i brani, attraverso queste diverse donne parliamo di diverse immagini femminili e di diverse posizioni che a volte ci danno, no, da prendere, a volte noi le prendiamo volentieri, a volte ci spostiamo da queste posizioni, no? Quindi per cercare, come dicevamo prima, di dire la tua, di fare quello che vuoi fare. E quindi questo brano rappresenta un periodo della donna dove stava in una certa posizione, dove se l'amore non funzionava e con l'educazione dell'amore che lei aveva avuto rimaneva in quella posizione desesperata. Che vuol dire desesperata? Disperata, ah, okay. Sì, come che poi le cose non hanno senso e tutto il resto. Quindi, come dicevamo prima, il tango ci porta questi passaggi, queste immagini, questi sentimenti, no, che rappresentano appunto, no, queste situazioni. Diciamo prima pure marginale, la donna più forte, più indipendente, come Maria de Buenos Aires, la donna educata in una certa maniera, quindi che deve stare nella società, in quel posto lì. E faccio, vabbè, adesso non ci abbiamo parlato prima, però mi è venuto in mente, c'è un gioco tra virgolette, un modo di invitarsi nel tango, che è con la mirada. Vuol dire guardarsi e essere invitati da lontano e ci si trova in pista. Sotto questo gioco anche lì c'è tutta una presa di posizione, perché c'è la donna che dice ma se lui non mi invita con la mirada io non ballo. Invece la mirada vuol dire che due persone si guardano dicendo vogliamo ballare, ci si incontra e ci si vede in pista. Quindi anche lì, no, c'è una presa di posizione, un modo di fare, e le immagini sono tantissime. Allora, invece, il prossimo brano con cui concludiamo questa bella serata è di una delle artiste più amate dell'America Latina, e sto parlando di Mercedes Sosa, che non è che ha fatto tanti tango, ha fatto molta musica folcloristica, ma ha fatto anche tango, come il prossimo brano che si chiama Del tiempo de mi niñez. Ho detto bene? Sì. Ma insomma, non so. Il tiempo de mi niñez, quando eravamo bambini. E appunto, sì, lei viene dal folklore argentino, ha creato un movimento di canto popolare argentino per portare avanti tutta una lotta politica e una presa di posizione, e nella seconda parte della sua vita da cantante ha fatto anche dei brani di tango e di rock nacional. E questo qua è una chacarera che si balla anche nelle milonghe, quindi quando ci si ritrova a ballare tango. E cos'è la chacarera? La chacarera è un ritmo folcloristico che parla proprio delle donne della chacra, quindi di queste paisanas, delle figlie dei contadini, ed è un ballo molto bello. Mi mamma sabía decirme, mi acuerdo cuando era chango, usted se acuesta la siesta, no vayas a andar ondeando. Nomás ya me ordenaba que algo en el suelo tirara y debajito el alero en un cuerito siesteara. Qué lindo tiempo, Coco, hermoso. Bajo el sopor de la siesta todo en silencio quedaba, con otro chango pa'l monte en puntepié me escapaba. Qué lejos que queda ahora, esa niñez añoraba. Quisiera mamá me mande que en un cuerito sisteara. Parece que fuera ahora cuando mi mamá ordenaba que un mandadito le hiciera a los rezongos rumbeaba. Y me encontraba los changos que a las bolitas jugaban, la bolsa de los mandados a un costadito quedaba. Ya sacaba mi terita y si por ahí yo ganaba, como un higuito y boyero mi bolsillito quedaba. Ay, ay, y si la plata por jugar se me extraviaba, antes de llegar a casa, ella enterito largaba.